Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. Pronti per cominciare, l'ultimo volume di Eclettica della settimana in corso. C'è la sigla che ci accompagnerà sicuramente ancora per questa stagione in cui l'orario è completamente cambiato, dalla tarda serata al tardo pomeriggio. Quindi magari può sembrare un po' impropria, però sapete, ci sono legato, affettivamente legato a questa sigla, e la cambierò con l'inizio della prossima stagione. Comunque dovrebbe predisporre al meglio all'atmosfera di Eclettica, pur non potendo essere messa in pratica, penso, dalla maggior parte di voi che siete all'ascolto. Scendeva lenta lungo il fiume come la personificazione stessa della città, tutta luci sfavillanti, brutta musica ad alto volume, striscioni e bandiere svolazzanti dal bumpresso e dalle ringhiere, 50 metri di lussuosa potenza e di elegante design. Il noleggio della barca e dell'equipaggio, 20 persone, era costato a Barney Loomis $6,000. La spesa aggiuntiva del servizio di catering per 112 pezzi grossi dell'industria della musica si aggirava sui $12,000. Se si considerava poi il compenso per l'orchestra di 10 elementi, un 15% di spese bancarie e l'8,25% di tasse locali, Loomis aveva calcolato che il lancio di Bandersnatch sarebbe costato alla Bison Records qualcosa come $25,000. Ma se il CD fosse balzato in cima alle classifiche di vendita, ne sarebbe valsa la pena. Questo era l'incipit dei Hill Party di Ed McBain. Sorridi, ah. some reason, I fit in the army like one of them round pegs. It's not really hard. You just make your bed real neat and remember to stand up straight and always answer every question with, yes, drill sergeant. Is that clear? Yes, drill sergeant! Volume di Eclettica con il suo equilibrio di libri e film e di canzoni vecchie e nuove, canzoni che già conoscete e altre che invece ascoltate per la prima volta. Quella con cui abbiamo aperto quest'oggi costituisce un po' un'anomalia perché esce da un album che è stato pubblicato nell'ottobre del 2006 dal titolo Detto a tua mamma che fumi, ma che viene ripubblicata come singolo proprio per quest'estate, visto che ha sonorità beatlesiane particolarmente estive. Si tratta di Sapore sapido di Kama, ripubblicata come singolo, ma che vedrete in rotation anche come video girato fra Roma e Ostia. E poi abbiamo proseguito con Itinerary When, brano che sicuramente ben conoscete, avendo trasmesso io per parecchie mesi, e sono curioso quest'estate di poterli finalmente vedere dal vivo. E invece è al primo passaggio in assoluto un album che sarà pubblicato solo nel mese di giugno per la Temporary Residence, il nuovo album del trio Fridge, trio che era nato come trio post-rock e ora non saprei più definire, nelle cui fila militano artisti come Adem e come Fortet. Album che verrà pubblicato per la precisione il 19 di giugno, si intitolerà The Sun e noi ci ascoltiamo Eyelids. Ogni tanto la Florida può essere stupenda in gennaio. Quando Matthew ci si era trasferito da Chicago più anni prima di quanti potesse ricordare, Joanna era ancora una bambina e sugli alberi davanti a casa c'erano le arance. Lui usciva a raccoglierle per la colazione e Susan le spremeva, mentre Joanna nuotava nella piscina sul retro. I cardinali svolazzavano sugli alberi, l'aria era profumata, il cielo azzurro, la vita dolce e pigra, e la Florida era tutto ciò che doveva essere. Questo succedeva molto tempo prima. Questo era l'incipit di Ultima Speranza di Ed McMahon. We'll be right back. on gas. Done drill, Sergeant! Go! Why did you put that weapon together so quickly, Gump? You told me to, drill sergeant. Jesus H. Christ! This is a new company record. If it wouldn't be a waste of such a damn fine enlisted man, I'd recommend you for OCS, Private Gump. You are going to be a general someday, Gump. Now, disassemble your weapon and continue. Sicuramente due dei nomi più importanti della stagione numero 13 di Eclettica, di quelli che verranno ricordati. Prima gli Umbri Disharmony con la loro formula così intrigante pur utilizzando strumenti tipici della musica classica e poi il duo statunitense The Blow con Parentheses. Ora è la volta della Danimarca di Copenhagen, Cherry Overdrive, un quartetto tutto al femminile.